Castellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 che prosegue con gli appuntamenti online in attesa di tornare dal vivo. Partiamo dal Piemonte, dove Elio Germano entra nelle case degli spettatori con Segnale d'allarme. Spettacolo in realtà virtuale dal 1 al 12 dicembre, progetto multimediale nell'ambito della rassegna online di Piemonte dal vivo. Gli spettatori assisteranno allo spettacolo grazie a visori e cuffie distribuiti in libreria. Ecco, alzi la mano chi ha capito qualcosa dalla presentazione sulla brochure. Eh? Meraviglioso, avete visto? Qualcuno sarà venuto così sulla fiducia, di questo io vi ringrazio moltissimo, qualcun altro è stato invitato, magari gli avranno comprato il biglietto a sua insaputa, come a Scaiola. Ve lo ricordate Scaiola, signori? È diventato sindaco di Imperia. Chissà se stavolta se ne è accorto, gli hanno detto qualcuno. L'esigenza dello spettacolo nasce dalla volontà di testimoniare questa decadenza del pensiero critico della nostra epoca storica, soprattutto nel nostro paese. Si chiama Segnale d'allarme questa versione in realtà virtuale proprio per questo motivo, per una sorta di denuncia, ma piuttosto di autoanalisi su quanto sia possibile che venga manipolato il nostro pensiero, proprio perché non esiste più pensiero critico, cioè uno schierarsi superficiale con cose che ci stanno simpatiche o antipatiche, cioè like o dislike mutuato da Facebook. Pescatori, alzino le mani i pescatori, uno che saprebbe riconoscere almeno qualcosa, due vongole. Cacciatori, ce li abbiamo? Gente che ama la caccia, oh, col fucile, che ora abbiamo anche la legge sulla legittima difesa, possiamo portarcelo sempre appresso il fucile, eh? Non vi vergognate, c'è qualcuno che è venuto armato questa sera? Quindi andiamo avanti, come dire, così la politica si sta muovendo in questa direzione, ma anche l'arte, per cui nel cercare sempre quello che piace al pubblico e appiattendo, come dire, la possibilità invece di approfondimento, di critica, di discussione il più possibile, perché è sempre richiesto poco tempo, pochi spazi, e questo fa sì che ci sia anche poco pensiero. E questo ci ricorda che noi abbiamo dimenticato completamente questo. Il fatto che il lavoro in sé dovrebbe avere sempre un doppio valore, proprio per definizione. Uno materiale, che consiste appunto in ciò che il lavoro restituisce all'individuo in termini concreti, e quindi sarebbe il proprio stipendio, ma anche un valore ideale, che sarebbe il valore della propria opera in funzione dell'utilità collettiva. Siccome questi slogan sono slogan a cui siamo abituati, sentiti appunto, tirati fuori nello spettacolo, abbiamo sentiti, dicevo, a livello trasversale da tutti i partiti politici, ci sembra qualcosa di possibile e quindi lo accettiamo, perché le persone intorno a noi applaudono, ci sono insomma argomenti convincenti. Ecco, questa esigenza di leaderismo è una cosa molto contemporanea e trasversale, è una cosa che mi fa paura, mi fa suonare un segnale d'allarme. Per informazioni www.piemontedalvivo.it/onlive. Andiamo in Veneto, dove proseguono i radiodrammi. Lunedì 30 novembre è la volta della Casa sulla Martinica, la storia di Tina Merlin, la giornalista che denunciò il disastro del Vajont. Una produzione di Minimi Teatri, come ci racconta l'interprete Letizia Piva. Abitavamo a 500 metri dalla piazza, in una casa quasi isolata, di quattro stanze con annessi stalla e fienile. Sul davanti, oltre l'ampio cortile, c'era un bel prato con tanti alberi da frutta e subito a ridosso un pezzetto di campo intercalato da filari di vite che arrivava fino al bosco dietro il quale scorreva la Martinica. Casa sulla Martinica era la casa natale di Tina Merlin. La Martinica era il torrente che lambiva il podere che circondava la casa. Ma la Casa sulla Martinica è anche un libro, uscito postumo, dopo la morte della Merlin, quindi, e in questo libro Tina racconta una parte della sua vita, dall'infanzia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo fino all'ultimo giorno della Resistenza, nel quale perse la vita il fratello Tony. Io non lo so se fosse un gagliardo, seppur inconsapevole istinto di classe a spingermi alla ribellione, oppure se fosse un sentimento cristiano contro le ingiustizie, assimilato a modo mio, frequentando la chiesa del paese. Sta di fatto che non sopportavo il non senso, le umiliazioni gratuite, il sentirmi discriminata solo perché ero la serva. Nel radiodramma si raccontano diversi episodi della vita di Tina in due blocchi. Nel primo si racconta della vita della bambina, della ragazzina e della sua povertà, quindi il lavoro nei campi, le debite, il parroco del paese, ma anche il lavoro a servizio nelle varie famiglie ricche di Milano e anche di Belluno. E poi il secondo blocco invece si concentra su la Seconda Guerra Mondiale, sulla partecipazione di Tina alla guerra come staffetta partigiana. Da sbandati, i ribelli stavano diventando combattenti di un esercito che si stava organizzando sulle montagne del paese e gruppi di donne addette ai collegamenti. Le donne. Vilma mi disse quella sera che le donne potevano fare la loro parte come la stavano facendo gli uomini sulle montagne. La prese alla larga per arrivare infine a dirmi che lei stava con quelli della montagna e con un ruolo preciso denominato staffetta. Tina Merlin è stata una donna coraggiosa, ma anche da adulta nella scelta del suo mestiere, quello di giornalista, un mestiere scandaloso all'epoca per le donne, al limite del libertinaggio, e in più faceva la giornalista per il quotidiano L'Unità. E fu coraggiosissima anche quando diede voce agli abitanti dei paesi poi distrutti dal disastro del Vajont e fu inascoltata. Pubblicò poi un libro con tutte le testimonianze che a suo tempo aveva raccolto. Per collegarsi lunedì basta andare sulla pagina Facebook di Art Van alle 19.30, poi successivamente sul sito myartvan.it, sezione radio, e sui canali Spotify e Speaker di Art Van. Ci spostiamo a Firenze, dove il Teatro La Pergola mette online le consultazioni musicali al telefono, uno spettacolo interattivo con musica e spettatore, come ci racconta Mattia Braghero. Pronto? Claudia? Sì, sono io. Ciao, sono Mattia, chiamo dal Teatro della Pergola per le consultazioni musicali. Ciao Mattia, ti stavo aspettando. Le consultazioni musicali a telefono sono un'iniziativa del Teatro della Pergola di Firenze in collaborazione col Teatro de la Ville di Parigi, volta a raggiungere le persone che in questo momento stanno vivendo l'isolamento, la solitudine, comunque l'allontanamento e il distanziamento sociale e fisico, di raggiungerle, di portare a loro, nelle loro case, nelle loro vite, nelle loro giornate, un po' di musica, un po' di arte, un po' di poesia, un po' di bellezza. Va bene, allora intanto dove abiti? A Firenze. Firenze. E quanti anni hai? 28. 28, ok. Come stai vivendo questo periodo? È un periodo un po' complicato. Io lavoro nel mondo dello spettacolo e come saprai sicuramente siamo fermi da febbraio. Si svolge così. Noi chiamiamo le persone che si prenotano sul sito, chiacchieriamo con loro facendo loro delle domande, cercando di capire qual è il loro stato d'animo, come stanno vivendo questo periodo. E alla fine di questa breve chiacchierata scegliamo per loro una canzone che possa essere di sollievo, che possa dare un punto di vista diverso o che possa anche ricalcare lo stato d'animo che stanno vivendo in quel momento. Quindi è abbastanza difficile. Senti Claudia, io dalle cose che mi hai diciamo appena raccontato mi è venuta in mente una canzone che sarebbe La Cura. E, oh, che meraviglia! Allora io vado. Vai. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che d'oggi incontrerai per la tua via. L'appuntamento è per tutti martedì, giovedì, sabato dalle 17 alle 19. Le prenotazioni al link bookeo.com/consultationpoetique. Infine torniamo a Torino, dove lo Stabile presenta online il docufilm Una terribile ripetizione, che richiama una battuta del testo di Federico García Lorca, La casa di Bernarda Alba, il regista Leonardo Lidi. Riparte rispetto a tua madre, rispondi! La casa di Bernarda Alba è l'ultimo testo di Federico García Lorca ed è il nostro spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino con la mia regia, e dovevamo debuttare a febbraio Lo spettacolo è stato interrotto 5 giorni prima del debutto, dopodiché è stato ripreso in questa stagione e ha subito dopo 3 giorni dal debutto la seconda interruzione. Quindi nostro malgrado purtroppo è esemplare rispetto a quello che hanno dovuto affrontare i teatri e quindi le produzioni teatrali. Avevamo contatti con l'esterno e l'esterno ci diceva che stava succedendo qualcosa di molto grave. E progressivamente questo qualcosa di grave entrava dentro il nostro lavoro. Il lavoro originale, perché parla di un mondo dimenticato in questo paese, almeno in questo momento, che è il mondo degli attori e delle attrici del teatro, un mondo che fa fatica ad essere tangibile nel presente ma che si colloca in una sfera temporale passata. E questo non lo dico per lamentarmi o per criticare le scelte governative, lo dico perché deve essere uno stimolo per noi lavoratori dello spettacolo. Io sono un regista di 32 anni e ad esempio in questo documentario noi parliamo di 7 donne, madri di 3 figli o figlie con difficoltà economiche, che ogni giorno nella quotidianità vivono le contraddizioni di questo bellissimo lavoro che spesso purtroppo non viene considerata una vera professione. E questo deve assolutamente essere il primo punto dei prossimi pensieri rispetto a questo fantastico mondo che è il mondo del teatro. Ci siamo trovati l'8 di marzo e abbiamo capito che non avremmo potuto debuttare a una settimana dal debutto. Il docufilm è disponibile al link www.teatrostabiletorino.it/terrible-repetition. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it, potete riascoltarci su podcast dove troverete anche gli indirizzi e i link per gli spettacoli. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.